cominciate ad osservare gli appoggi di tutte le parti del corpo, partendo dai piedi, salendo la testa. Osservate come sono messi i talloni, come appoggiano i polpacci, quanto distano le ginocchia e le cosce da terra. E poi come è messo il bacino, sia a destra che a sinistra. E continuate osservando come è messa la schiena, quindi come è messo il coccige, l'osso sacro, l'arco lombare. Le costole, le scapole. E poi come è messo il collo e la testa. Come tenete la bocca. Se riuscite a tenerla morbida o digrignate i denti, contraete muscoli della bocca e della mandibola. E infine osservate come sono messe le spalle e le braccia. Perfetto, adesso immaginate di essere come bambini piccoli in braccio al papà o alla mamma addormentati. Quindi sapete quando i bambini sono tutti abbandonati, che cadono da tutte le parti in braccio al papà o alla mamma. Quindi osservate se riuscite ad abbandonarvi in quel modo sul pavimento. Come respirate? Perfetto, adesso piegate le gambe, staccate i piedi da terra, tirate le ginocchia su verso il torace. E prendete con ciascuna mano ciascun ginocchio. E cominciate a rullare a destra e a sinistra. E osservate come lo fate. Se riuscite ad essere quel bambino addormentato, abbandonato in braccio. Come muovete le gambe e il corpo. Se siete dei conigli congelati che ruotano attorno al proprio asse. O se vi muovete lasciando che una parte muova l'altra. Osservate se è un movimento gradevole o se fate un po' di fatica. E osservate se arrivate fino a terra o no. E se arrivate fino a terra, chi arriva fino a terra, se quando appoggia le gambe, le ginocchia a terra, appoggia anche i piedi, o se i piedi li tiene sollevati. Si può fare appoggiando anche i piedi. Vi fermate, allungate le gambe, la pancia in su, supini, osservate come state appoggiate a terra. E adesso lentamente cominciate a ruotare il piede destro in fuori, in modo che il bordo esterno del piede tocchi il pavimento. E poi tornate. Ruotare solo, non slittare in fuori con la gamba. E ciascuno di voi vedrà, qualcuno già lo fa, se per toccare col bordo esterno del piede è necessario piegare la gamba più o meno. Quindi continuate a ruotare in fuori il piede, a tornare, e quando lo ruotate in fuori, ogni volta piegate la gamba un pochino di più, finché piano piano ruotate in fuori il piede, piegate la gamba e il piede arriva più o meno verso il bacino. Ruotatelo facendo attenzione alle varie parti del corpo, abbandonando sempre il peso. Quindi se lo fate abbandonando il peso, molto lentamente, ascoltando come vi muovete, vi accorgerete che pian piano tutta la gamba, muscoli, articolazioni, tutto quanto cambia, si modifica, c'è tutto un gioco, tutto lascia andare. E lo stesso percorso che fate all'andata, fatelo al ritorno. Quindi ruotate in fuori il piede, il ginocchio si muove in fuori, quando allungate la gamba, il bordo esterno del piede sta appoggiato per terra, quindi il ginocchio passa da fuori, non scende dritto. E man mano che lo fate, osservate come passa il movimento nel bacino e nella schiena. Come respirate, come tenete la bocca. Bene, adesso rimanete con la gamba piegata, quando arrivate col ginocchio in su verso il bacino, e adesso, tenendo la gamba piegata così com'è, staccate leggermente il tallone da terra, solo il tallone, e lo appoggiate. Quindi staccate il tallone un po' all'esterno del piede e la punta sta appoggiata. Ginocchio in fuori, se non vi fa male. E adesso staccate il tallone, il bordo esterno, le dita. Quindi per fare questo dovete sollevare di più il ginocchio verso il torace. Quindi andate col ginocchio in su verso il torace, staccate il tallone, il bordo esterno, le dita. Riappoggiate le dita, il bordo esterno, il tallone e riallungate la gamba. E continuate dalla gamba allungata, ruotate in fuori il piede destro, strisciate il bordo esterno sul pavimento, arrivate verso il bacino, staccate tallone, bordo esterno, dita, ginocchio e salite col ginocchio in su verso il torace, in modo da arrivare a gambe piegate. Non occorre che stia tantissimo in fuori, basta che non sia dritto. Attenzione che per toccare il bordo esterno del piede non è necessario mettere il piede a martello e irrigidirlo. Si può toccare col bordo esterno del piede lasciando il piede abbandonato. Avete presente la mano morta? Ecco, piede morto, non a martello. E quando salite col ginocchio verso il torace, potete trovare la vostra traiettoria andando un po' indentro. Il ginocchio non è né del tutto in fuori, né su dritto, per ognuno c'è una posizione che ciascuno trova. E quando tornate, muovete il ginocchio dal di fuori, appoggiate le dita, il bordo esterno del piede, il tallone e allungate la gamba. Senza fatica, staccare tallone, bordo esterno e dita, non è un esercizio, ma se voi tenete il piede morbido è il movimento che viene naturale quando si stacca il piede da terra. Quindi basta che ascoltiate come si muove il corpo. E respirate. Quando allungate la gamba, il piede è col bordo esterno appoggiato, il ginocchio in fuori. Non allungate la gamba appoggiando la pianta e tenendo il ginocchio dritto. Movimento reversibile, stesso percorso al ritorno dell'andata, a ritroso. Perfetto, adesso quando arrivate allungate la gamba, state fermi e osservate se c'è un po' di differenza nel modo di appoggiare tra la gamba destra e la gamba sinistra. Adesso cominciamo lo stesso lavoro con la gamba sinistra. Ruotate in fuori il piede sinistro in modo che il bordo interno, esterno, scusate, tocchi il pavimento e poi allungate la gamba. E ogni volta, no, non staccate ancora il piede. La gamba è allungata, ruotate in fuori il piede sinistro. Perché il bordo esterno tocchi un po' la gamba, come avete visto prima, si piega, e ogni volta allungate e ripiegate, ogni volta piegate un pochino di più, non subito, finché alla fine il tallone arriva più o meno verso il bacino e il ginocchio in fuori. Molto lentamente, più il movimento è lento, più ascoltate come passa in tutta la gamba, in tutto il corpo, meglio è. Osservate se respirate, come tenete la bocca. Ruotate in fuori il piede sinistro, il bordo esterno del piede sinistro tocca per terra, ritornate e ogni volta col bordo esterno del piede sinistro a terra piegate un po' di più la gamba in modo da avvicinare il tallone al bacino e poi strisciando il bordo esterno del piede allungate la gamba e continuate. Ruotate in fuori il piede sinistro, strisciando il bordo esterno piegate la gamba lasciando il ginocchio in fuori, strisciate il piede sinistro e allungate la gamba. Bene, adesso quando arrivate con la gamba piegata, il piede vicino ai glutei, staccate il tallone e poi lo riappoggiate, solo il tallone. E poi sollevate il tallone, il bordo esterno del piede, le dita e andate col ginocchio verso il torace. E poi riappoggiate, tornate, riappoggiate le dita del piede, il bordo esterno, il tallone e riallungate la gamba, sempre passando dal di fuori col ginocchio. E continuate, allungate la gamba, la ruotate in fuori, la piegate, staccate il tallone, il bordo esterno, le dita, mentre il ginocchio sale al torace. Come dicevo prima, quando il ginocchio sale al torace, ognuno di voi cerchi la sua traiettoria. Il ginocchio non è né completamente in fuori né completamente in dentro, c'è una variabilità, ognuno ha la sua. Esplorate qual è. E come dicevo prima, il piede sta morto, la mano morta, avete presente? Lo stesso il piede sta a penzoloni, non si irrigidisce, non è a martello. Quindi ogni volta che staccate tallone, bordo, dita, è proprio quello che viene naturale se il piede sta morbido. E quando ritornate, pensate prima di allungare la gamba che il bordo esterno deve appoggiare per terra. E osservate se respirate, come tenete la bocca, la testa, il collo. Adesso quando tornate rimanete fermi un attimo, osservate l'appoggio delle due gambe e della schiena e poi cominciate a ruotare contemporaneamente i due piedi in fuori, a strisciare contemporaneamente il bordo esterno sul pavimento e a piegare le gambe e a far strisciare i talloni verso i glutei. E a staccare i talloni, il bordo esterno, le dita e ad andare con le ginocchia in su verso il torace. E poi da lì riscendete, appoggiate le dita dei piedi, il bordo esterno, il tallone e riallungate la gamba, le gambe. Attenzione che spesso, per evitare che il materassino o la coperta si pieghi, le persone si irrigidiscono. Allora, o lasciate che tutto si muova senza farci caso, o uscite con le gambe sul pavimento. Non irrigiditevi per evitare che il materassino si pieghi. O non tenete le gambe troppo larghe per non strisciare sul materassino. Continuate piano piano a strisciare il bordo esterno, allungando la gamba e piegandola, e cominciate ad osservare cosa succede nel bacino, nella colonna vertebrale e nella testa. E quando le gambe sono piegate, le ginocchia non sono unite, sono larghe, ciascuno la sua larghezza, ma non ginocchia unite. E cominciate a mettere attenzione alla parte bassa della schiena. Cosa fate con le ginocchia? Le piegate appena appena o salite abbastanza? Osservate cosa succede quando le piegate solo un po' e cosa succede nella schiena e nel bacino quando salite abbastanza con le ginocchia. La schiena lavora in modo diverso. Se le piegate appena appena e staccate i piedi tenendo le ginocchia lontano da voi, la schiena rimane inarcata. Se voi salite con le ginocchia verso la testa, il bacino ruota in retroversione, si muove e la schiena si appiattisce sul pavimento. Quindi lasciate che il bacino si muova, non tenetelo bloccato. Che rotoli avanti e indietro. E cominciate a osservare non solo il bacino, ma tutta la schiena, la testa, il mento. Cosa fanno la testa e il mento quando allungate le gambe e quando le piegate? Cosa fanno o non fanno? Può essere che per una ragione qualsiasi, nella parte alta della schiena, nel collo, il movimento si blocchi. Quindi può essere che lo sentiate e può essere che no. Chi comincia a sentirlo, osservi cosa fanno il mento e la testa. Quando le gambe vanno in giù e quando si piegano. Vi accorgerete che quando piegate le gambe e salite con le ginocchia, il mento va indietro. Quando allungate le gambe, il mento si avvicina alla gola. Osservate se quando le gambe sono piegate i piedi sono penzoloni, sono morti, o se li tenete contratti a martello. E osservate chi muove la testa, se la muove perché l'ho detto io o perché sentite che il movimento passa. Si vede? Lo vedo qua. Perfetto, quando avete allungato le gambe rimanete fermi un attimo in appoggio a terra. E adesso mettete le braccia in fuori e piegate, staccando da terra, la mano e l'avambraccio. Il gomito sta appoggiato da entrambe le parti. E piegate le gambe, staccate i piedi da terra. Questa è la posizione di partenza. Adesso, molto lentamente, cominciate ad andare solo con la gamba destra in fuori verso destra. Attenzione che vedo dei piedi a martello, piedi morbidi. E continuate ad andare con la gamba destra a destra e ritorno. La gamba sinistra sta ferma per il momento. E lasciate che anche la testa appena appena giri a destra. E adesso lasciate che la gamba destra vada verso destra. Le permettete di tirare il bacino e la gamba a sinistra. Poi torna la gamba a sinistra, tira il bacino e la gamba a destra. Sempre dal centro verso destra. Non muovete tutte e due le gambe insieme, una dopo l'altra, sia all'andata che al ritorno. La seconda gamba viene tirata dalla prima che si muove, è passiva. E adesso cominciate dal centro a muovere la gamba destra a destra, la gamba tira il bacino, che tira la gamba a sinistra, che fa passare il movimento nella schiena e alla fine lasciate che anche il gomito sinistro si sollevi. Muovete il braccio sinistro a destra e arrivate rannicchiati sul fianco destro. Fate attenzione se abbandonate i piedi per terra o se li tenete sollevati. E quando siete in posizione fetale, oltre a fare un bel respirone e godervela, piano piano tornate indietro, quindi cominciate a muovere la testa e il gomito sinistro, che tornano, fanno ruotare la schiena, poi si stacca la gamba sinistra che tira il bacino e la destra. E poi ricominciate da capo, sempre verso destra, una parte alla volta, non insieme, non muovete le gambe insieme, una tira l'altra. Osservate la bocca e il respiro. E quando arrivate al centro vi fermate e allungate le gambe e le braccia. E osservate come state appoggiati a terra. E adesso cominciamo la stessa cosa a sinistra, quindi piegate le braccia, tenendo appoggiate fino al gomito, sollevando l'avambraccio, piegate le gambe e cominciate ad andare solo con la gamba, piedi staccati, cominciate ad andare solo con la gamba a sinistra e ritorno. Solo la gamba a sinistra. Quindi non andate più che tanto, altrimenti muovete subito anche la destra. E adesso cominciate a permettere che la gamba sinistra tiri il bacino e tiri la destra. Quindi arrivate con le due gambe, una dopo l'altra, a sinistra. E poi ritornate con la gamba destra che tira il bacino e la sinistra per tornare al centro. E respirate. Poi cominciate ad andare con la gamba sinistra, il bacino, la gamba destra, lasciate che si muova la schiena e che alla fine anche il gomito destro si sollevi, vada verso sinistra e arrivate rannicchiati in posizione fetale a sinistra, con i piedi ben appoggiati a terra, tutti abbandonati col peso sul pavimento. In una piacevole posizione fetale, che in genere piace a tutti. E poi da lì tornate col gomito destro, la testa. Lasciate che il movimento passi nella schiena, nel bacino, nella gamba destra, bacino, sinistra, e continuate una parte alla volta ad andare verso sinistra. È bellissimo vedervi. Piedi a penzoloni. Poi arrivate al centro, vi fermate e allungate le gambe e le braccia. Osservate l'appoggio a terra e poi ripiegate le gambe, ripiegate le braccia, staccate i piedi. Adesso andate con la gamba destra a destra, lasciate che tiri il bacino, la gamba a sinistra, la schiena, il gomito a sinistro e arrivate sul fianco destro. Poi da lì ritornate con la testa e il gomito sinistro, con la schiena, cominciate a staccare la gamba sinistra verso sinistra, ma quando sentite che la gamba destra vuole muoversi, tornate indietro verso destra. E poi di nuovo rimuovete la gamba sinistra in fuori. E quando la gamba destra vuole sollevarsi, ritornate verso destra. La gamba destra rimane ferma lì dov'è e la gamba sinistra si muove fin dove arriva. E adesso, quando siete tornati col gomito sinistro, la schiena e la gamba sinistra, questa volta continuate con la gamba sinistra a sinistra, finché anche la gamba destra viene trascinata e si solleva, e continuate a condurre con la gamba sinistra a sinistra, finché piano piano arrivate sul fianco sinistro e alla fine si stacca anche la schiena e il braccio destro. Piedi a penzoloni, morbidi. E quando siete a destra, cominciate a tornare col braccio sinistro, braccio destro. Lasciate che tiri la schiena, la gamba destra. E quando la sinistra vuole muoversi, tornate indietro a sinistra. E per 2-3 volte fate così. Osservando se state respirando, come tenete la bocca, le mani, le spalle. E adesso, quando andate col gomito destro in fuori a destra, lasciate che vada la schiena, la gamba destra, e questa volta la gamba destra continua, permette alla gamba sinistra di essere trascinata, di sollevarsi, e continuate verso destra, fino ad arrivare sul fianco destro, rannicchiati, tirando una parte dopo l'altra. e poi dalla posizione fetale a destra tornate col braccio sinistro, la schiena, la gamba sinistra, il bacino, la gamba destra e piano piano rotolate verso sinistra. Lentamente, osservando come passa il movimento, come vi muovete. E quando arrivate al centro, la prossima volta vi fermate e allungate le gambe e le braccia. Osservate come state sdraiati a terra. Come sono messe le gambe, il bacino, la schiena. E poi aprite le braccia col palmo in su all'altezza delle spalle. Piegate braccia aperte, non piegate. Aperte. Palmo in su. Piegate le gambe. Staccate i piedi e adesso di seguito andate a destra e a sinistra muovendo una gamba dopo l'altra, però tenendo ferme le braccia. Quindi andate con la gamba destra a destra che tira il bacino alla sinistra, le braccia stanno ferme, poi parte la gamba a sinistra, tira il bacino, tira la gamba destra a sinistra. Una parte dopo l'altra. Osservate come viene il movimento da una parte e dall'altra, come si muove la schiena, la colonna vertebrale da una parte e dall'altra, da che parte è più facile e da che parte lo è di meno. E man mano lasciate che la testa guardi alla mano opposta alla direzione delle gambe. Se andate con le gambe a sinistra, lasciate che la mano guardi la mano destra. Se andate a destra, lasciate che la testa guardi la mano sinistra. Lentamente. Osservate come sono messi i piedi. Se sono pendoloni o se sono a martello, se li tenete. Bene, adesso rotolate di seguito come volete, muovendo tutto il corpo a destra e a sinistra, anche le braccia. E potete anche variare la velocità, più lento, più veloce, una via di mezzo. Mm. muovendo una parte dopo l'altra. E vi fermate e allungate le gambe e le braccia. Adesso piegate le gambe, staccate i piedi, mettete le mani sulle ginocchia, ciascun mano su ciascun ginocchio. E come abbiamo fatto all'inizio, rullate a destra e a sinistra. Osservate come lo fate. Lo state facendo uguale o in modo diverso? C'è di tutto. Nessuno vi ha detto che adesso dovete tenere le ginocchia unite e muoverle insieme. E nessuno vi ha detto che non è permesso arrivare a terra. E nessuno vi ha detto che dovete tenere i piedi sollevati quando siete sul fianco. E tutti sappiamo la forza delle abitudini. Per cui dopo un'ora che vi faccio muovere ascoltandovi e muovendo una parte dopo l'altra, quando vi faccio fare la prova, se non suona il campanellino, ritornate a farlo come all'inizio. Applicatelo al quotidiano. Osservate come tenete le dita delle mani appoggiate sulle ginocchia mentre rotolate di qua e di là. Avvolgono le ginocchia o c'è qualche dito, qualche pollice sparato? E poi vi fermate, allungate le gambe, arrivate supini. E cominciamo a riosservare il modo di stare appoggiati a terra, confrontandolo con l'inizio. Partiamo dai piedi, talloni, i polpacci. Come sono messe le ginocchia e le cosce, come tenete le gambe adesso, che sono più libere, più aperte, più dritte, come è messo il bacino, a destra, a sinistra, e poi la schiena, partite dal coccige fino alla testa. Osservate come si adagia la schiena per terra, nell'osso sacro, parte lombare, torace, cintura, torace. come appoggiano le costole e le scapole, come ha messo il collo e la testa, la bocca. E poi come sono messe le spalle e le braccia. E quando avete confrontato, lentamente, arrotolate di fianco, vi sedete, piano piano vi alzate e quando siete in piedi state fermi un attimo osservando come state in piedi e poi camminate. Questo dovrebbe essere questo il centro.